piovuto questa notte, gocce di fragilità sono acide e confuse e pungenti come accuse. Nei riflessi di uno specchio vivo a pezzi e lecco piano ferite del karma. Cercherò fuori di me qualche segnale, qualcosa che vale, o forse un'altra canzone che mi fa innamorare e poi perdere. Neppure sentire un'emozione, dare un taglio alla ragione. Passeggiavo nel silenzio tra gli inganni della mia introspezione.